ciao a tutte e ciao a tutti. Siamo in diretta oggi dallo spazio comune Cuore in Gola con Radio Tagadà. Oggi parleremo di svariate argomentazioni. Parleremo del corteo di Monza che si terrà il 5 novembre e ce lo faremo presentare da un compagno. Parleremo poi della situazione di sfratti, sgomberi, riqualificazione, gentrificazione, di cosa sta accadendo a Milano in città e nello specifico in alcuni quartieri che viviamo ed attraversiamo. Avremo anche degli aggiornamenti sui prigionieri e su alcuni processi repressivi nei confronti degli anarchici e delle anarchiche, una rubrica sullo sport popolare, tutte le iniziative che ci saranno a Milano nel fine settimana e tanto altro. Ricordiamo che al momento siamo in diretta sul link in streaming http://radioondadurto.it/9000/tagadà. Comunque, se non riuscite a sentirci oggi in streaming, domani, ovvero sabato 22 ottobre, andremo in onda sia dal sito di Radio Onda d'Urto, che potrete ascoltare la diretta, potete ascoltare la diretta lì cliccando su Ascolta la diretta, ma potrete fare la stessa cosa anche, anche dal nostro blog Cronache di Regime. Ricordiamo che la radio andrà in diretta anche in FM sul 98.0 a Milano oppure a San Giuliano Milanese sull'88.0. E inoltre potrete provare a sentirci con il nuovo sistema digitale per le radio, il Digital Audio Broadcasting, sul DAB+, cercando il canale Onda d'Urto. Oppure se siete anche super tecnologici, avete smartphone o iPhone, potete scaricare l'applicazione di Radio Onda d'Urto, l'app come si dice in gergo. Allora, ricordiamo i nostri contatti al volo, potete scriverci a cronachedi.regime@autistici.org. Siamo anche su Instagram e Facebook sotto il nome di Radio Tagadà. Potete scriverci via Telegram in diretta al 351-877-6512. Ricordiamo il nostro blog cronachediregime.noblogs.org. Bene, pare che ci siamo, iniziamo subito con la musica. Vai Daina, questi sono i Madness con Baggy Trose. Baggy dresses,

Allora, 17.55 di questa puntata di Radio Tagadà, che andrà domani in differita su Radio Onda d'Urto e sulle frequenze streaming in FM e in DAB della radio di Brescia. Allora, abbiamo appena sentito i Crystal Castle con Vanished, un duo electro canadese. Volevo scusarmi con gli ascoltatori e le ascoltatrici quando parlavo dell'altro gruppo molto importante dello ska negli anni 80 in Inghilterra. Logicamente mi riferivo a UB40 e non a UB40, scusate, però l'italo-abruzzese insomma si fa sempre sentire. Allora, come detto prima, quando elencavamo gli argomenti di cui avremmo trattato oggi in puntata, dicevamo anche che avremmo dato un po' di aggiornamenti riguardo i prigionieri e un po' di processi nei confronti degli anarchici e delle anarchiche. Allora, partiamo con un aggiornamento che ci viene dato dalla sezione di 41, del 41 bis di Bancali a Sassari, dove era incluso Alfredo Cospito. Sono uscite due righe ieri e noi leggiamo questo mini aggiornamento. Allora, l'anarchico Alfredo Cospito ha iniziato uno sciopero della fame ieri 20 ottobre 2022 e appunto ieri presso il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, nel corso di un'udienza riguardante il sequestro della corrispondenza, Il compagno ha dichiarato l'inizio di uno sciopero della fame contro il regime detentivo 41 bis in cui è stato trasferito il 5 maggio. Il compagno, che ha fatto una dichiarazione, non era presente in aula, ma collegato in videoconferenza dal carcere di Bancali. Seguiranno aggiornamenti. Morte allo Stato e viva l'anarchia. Ora ricordiamo appunto che Alfredo insieme ad Anna è stato condannato nel processo Scriptamanent ed entrambe rischiano l'ergastolo per questa operazione repressiva. Vi aggiorniamo anche sulla vicenda processuale di Juan, che è recluso nel carcere di Terni. Lui in primo grado ha preso una condanna di 28 anni perché è stato ritenuto colpevole di un attacco ad una sede della Lega nella provincia di Treviso. Parliamo di altri due processi sempre nei confronti di anarchici ed anarchiche. È invece terminato il primo grado del processo Bialystok. Processo Bialystok, ricordiamo che parte dalla Procura di Roma e c'è sempre una richiesta di 270 bis, e quindi in realtà in primo grado è caduta l'associazione a delinquere penalizzata alle persone di Stato, e la condanna più alta per i sei compagni e compagni imputati ed imputati è di un anno, quindi le pene vanno da un anno in giù. Per il processo Prometeo invece, ricordiamo che per il processo Prometeo erano imputati Robert, Peppe e Natascia. In primo grado erano stati assolti dalle accuse che rivolgeva loro il PM Manotti di Genova. In appello il procuratore generale di Genova ha richiesto addirittura l'assoluzione. A breve arriverà la sentenza di appello e di sicuro ci aggiorneremo. Ora continuiamo con un po' di musica. Ci sentiamo Ariane De Morgana, tratta dal disco appena uscito Contemporaneità. Questa band post-punk fiorentina, appunto chiamata Morgana, il 12 pollici è uscito pochi mesi fa, ad agosto 2022, e il pezzo ci fa tornare indietro con un grande salto negli anni 80. Vai Daina. Allora, 18.04 e torniamo in diretta con Radio Tagadà. Abbiamo ascoltato questa traccia attaccata ai Morgana. Questi erano i Poil con Boysar, il duo olandese della New Wave. Punti Poll pubblica il secondo singolo e video in studio, Boysar, i fratelli. Modello musicisti, insomma, Ruben Poll e Mattis Poll si sono ispirati alla New Wave della fine degli anni 70 per questa nuova traccia. Descrivono il significato della canzone come un qualcosa di mascolinità tossica, qualcosa che indugia ancora nella società attuale. Allora, torniamo anche in diretta e continuiamo con gli approfondimenti. Come detto in scaletta, parleremo anche oggi di sfratti, di sgomberi, riqualificazione, gentrificazione, cosa sta accadendo a Milano. Partiamo da un avvenimento relativamente vicino alla zona dalla quale stiamo trasmettendo. Infatti settimana scorsa c'è stata un'opposizione ad uno sfratto in Via La Spezia ed ora siamo in collegamento con un compagno che ci racconterà un po' cos'è accaduto. Ciao, ci senti? Sì, vi sento. Ciao. Ciao, grazie e benvenuto a Radio Tagadà. Allora, niente, volevamo chiederti un po', appunto, di parlarci un po' dello sfratto e dell'opposizione allo sfratto in Via La Spezia e come nasce anche, appunto, l'idea di opporsi ad uno sfratto, ricordando che non è una cosa nuova per Milano, perché ci sono state già situazioni nel passato e ti chiedo anche se questa opposizione qui cerca di avere una continuità col percorso di anni fa. Sì, certo, praticamente noi come, ciao a tutti intanto e a tutte, come comitato di lotta casa e territorio abbiamo da sempre attraverso lo sportello fatto un lavoro che andasse anche a intercettare le situazioni di sfratto, per cui in un discorso generale del diritto all'abitare, dove l'aspetto delle occupazioni è stato uno strumento importante, specialmente per quanto riguarda il patrimonio immobiliare pubblico, questo sfratto che, al quale ci siamo opposti nel mese di settembre-ottobre è un alloggio privato, che la famiglia che abita in questo appartamento è diventata morosa come tanti in questo periodo a seguito della pandemia. A seguito della pandemia non sono riusciti più a pagare un affitto comunque che per un monolocale di 25 metri quadri è di 700 euro, no? Per cui si capisce come una situazione di precarietà e di mancanza di lavoro per effetto della pandemia ha portato questa famiglia a non riuscire appunto a pagare più l'affitto. Gli è stata fatta un processo per morosità, sfratto per morosità, è stato convalidato lo sfratto e dal 16 di giugno al primo accesso dell'ufficiale giudiziario, l'ufficiale giudiziario aveva dato il rinvio al 16 settembre. Il 16 settembre abbiamo indetto un picchetto antisfratto che si è rivelato subito problematico, in quanto non ce l'aspettavamo, visto che era solo il secondo accesso. C'era una presenza abbastanza cospicua di polizia in assetto antisommossa e la partecipazione a una presenza notevole anche di Digos e polizia, ecco, e commissariato di zona. Per cui l'ufficiale giudiziario sembrava, cioè, era determinata ad eseguire lo sfratto, ma per cui noi crediamo che se non ci fosse stato il picchetto, lo sfratto sarebbe stato eseguito. In quell'occasione, il 16 settembre, siamo riusciti a ottenere un rinvio che era per l'11 ottobre scorso. L'11 ottobre scorso il copione purtroppo si è ripetuto, la presenza di polizia e agenti sia della questura, del commissariato di zona che della Digos in Borghese, la loro presenza era notevole, dicevo, e anche in questo caso comunque la determinazione del picchetto è riuscita a fare sì che lo sfratto non avvenisse neanche questa volta, e c'è stato un ulteriore rinvio al 15 novembre prossimo. Comunque non rinvii lunghissimi, ma comunque utili per la famiglia. Cioè, c'è da un appunto che vorrei fare, una sottolineatura che vorrei fare: questa famiglia tra l'altro ha fatto regolare domanda di casa popolare e regolare domanda di per un alloggio anche temporaneo, no? E ha tutti i requisiti, solo che la risposta da parte delle istituzioni, cioè del Comune di Milano, è che non hanno case da dare. Cioè, noi sappiamo che questo è assolutamente non vero, perché siamo una cosa falsa. Sappiamo bene che le case le chiudono, sappiamo, le lamierano, le distruggono. Sappiamo benissimo che a Milano di case popolari vuote ce n'è decine di migliaia per difetto, no? Per cui la nostra battaglia è che a questa famiglia venga riconosciuta l'assegnazione di un alloggio popolare, no? E non uno sfratto senza soluzione, appunto, visto la situazione di Milano, che è anomala in tutta Italia, del grandissimo vuoto del patrimonio immobiliare pubblico. Sì, allora dicevi anche che, appunto, come comitato di lotta state anche spingendo appunto nel caso specifico di questa famiglia per la richiesta di assegnazione della casa. C'è anche un percorso che va avanti per la sanatoria da un po'. Ricordiamo che questa domenica c'è stata un'iniziativa in Ticinese, tra via Gola e via Borsi c'è stato un pranzo in via. E volevamo chiedere appunto se c'erano delle novità riguardo appunto la richiesta di assegnazione per gli alloggi popolari, perché a quanto pare ad alcuni occupanti in quartiere, non solo in questo quartiere, però noi logicamente partiamo dalle vie che attraversiamo, ad alcuni occupanti che hanno la residenza perché erano riusciti a farla prima della famosa legge Renzi del 2013, se non erro, se non ricordo male. 2014, sì, scusami. Comunque ad alcuni occupanti è arrivato il messaggio che potevano fare richiesta per l'assegnazione dell'alloggio, quindi volevo chiederti un po' qualcosa riguardo questo, se ne sapevate di più e come ci si pensa di porsi, e come la lotta per la sanatoria, insomma, vuole entrare in questa ennesima richiesta di assegnazione e di regolarizzazione anche degli occupanti, perché a quanto pare che ci sia questa roba. Poi non sappiamo se i messaggi sono arrivati in automatico o meno, però sarebbe interessante capire, insomma, qualcosa riguardo. Che io sappia, che noi sappiamo, questo è l'apertura del bando, per cui c'è l'apertura del bando per l'assegnazione delle case popolari, che si chiuderà a dicembre, no? Per cui è girato questo tipo di messaggio qua, per cui che ricorda a tutti che è riaperto il bando, per cui chi è possibile fare la domanda per l'assegnazione della casa popolare. Questo, no? Poi per quanto riguarda invece il ragionamento, cioè la battaglia per la sanatoria, come dicevi, domenica scorsa c'è stato un'iniziativa in strada che con l'obiettivo di sostenere questa campagna, cioè sostenere la campagna contro la riqualificazione del quartiere, che sappiamo bene che vuol dire allontanamento delle persone occupanti, degli abitanti occupanti e non, ovviamente con precedenza agli occupanti, ma il loro allontanamento in funzione della cosiddetta riqualificazione, cioè ridisegnare un quartiere per chi può permetterselo, per cui per chi può pagare affitti che arrivano ai 1000 euro e passa al mese. La nostra battaglia, la nostra opposizione a questi progetti speculativi è quello della rivendicazione dell'assegnazione degli alloggi popolari occupati dalle famiglie ormai da tanti anni, le quali appunto hanno provveduto a riqualificare e a ridare vita ad appartamenti che l'ALER le aveva ridotti in condizioni disastrose, in quanto è pratica dell'ALER, è stata pratica dell'ALER negli anni passati, ma anche adesso, che quando viene liberato un alloggio loro provvedono a distruggerlo rompendo sanitari e anche i muri divisori molte volte, per renderlo appunto inagibile, per cui non assegnarlo e per cui renderlo fruibile per la privatizzazione e la speculazione sull'abitare in pratica, in buona sostanza. Sì, poi dopo di questo ne parleremo con una compagna che sarà presente direttamente qui dallo studio improvvisato dello Spazio Comune Cuore in Gola. Va bene, niente, ti ringraziamo per la panoramica e insomma per l'ottica di queste che ci hai dato riguardo l'opposizione ai sfratti in via La Spezia. Quindi volevamo solo ricordare, al momento lo sfratto è stato rinviato al giorno... Al momento lo sfratto è rinviato al giorno 15 novembre, e ovviamente già da adesso chiamiamo tutti alla presenza solidale anche in quell'occasione, visto che solo la presenza del picchetto in quelle mattine ha garantito che quella famiglia abbia ancora un tetto sopra la testa e non sia in strada, come purtroppo decine e centinaia di altre famiglie. Perfetto, allora rilanciamo appunto l'appuntamento per novembre e magari ci risentiremo anche più là. Noi ti ringraziamo e ti auguriamo una buona giornata. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Allora, ringraziamo il compagno che ci ha descritto un po' della situazione in via La Spezia. Ora ci sentiamo gli Broken Expans con Wipe Out. 18:20 Radio Tagadà, sempre in diretta dal Spazio Comune Cuore in Gola, oggi in streaming e domani ricordiamo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, sia in streaming che in FM, che in DAB dalle 14:30 alle 16 la replica di questa puntata che stiamo conducendo appunto oggi in diretta. Questi erano gli Unbroken Expanse con Wipeout, gruppo australiano alternative rock. E pubblicano il loro primo CD omonimo nel 2013. Invece Wipeout è uscita pochi mesi fa, datata infatti luglio 2022. E ora invece, come detto settimana scorsa, nuova rubrica. Vai Daina. Tutto lo sport popolare minuto per minuto. Allora, come detto settimana scorsa, dedicheremo una parte di questo nuovo programma radio su Milano e non solo allo sport popolare, quindi a un po' di squadre di sport popolare di Milano. Partiamo con il rugby, perché sennò partiamo sempre con il calcio e che palle, non solo che palle. Insomma, domenica la squadra Wisp della Stella Rossa Rugby Milano affronterà la prima di campionato contro i cugini della SR, quindi subito derby e spalti caldi dalle 14:30 per la partita d'andata del girone A del campionato Wisp 2022-23. La partita si giocherà al centro sportivo Cameroni in via Becchi 2 a Gorla. Rimanendo sempre a Gorla, parliamo della Sant'Ambrose. Domenica scorsa la squadra iscritta alla seconda categoria in FIGC ha perso 2-1 contro la milanese Corvetto. E invece questa domenica si va in trasferta sempre a Milano contro la polisportiva Orpas. L'altra squadra maschile invece della Sant'Ambrose, che è iscritta al campionato di calcio a 7 CSI, ha vinto 3-1 in trasferta contro il Vittoria. E questa domenica va a giocare in un altro bel quartiere di Milano, al Quarto Giaro. La femminile invece giocherà il 26 novembre contro un'altra squadra, contro Assisi, che riprenderemo dopo anche Assisi, perché a quanto pare c'è stato ieri sera un incontro tra l'Ardita Giambellino e Assisi. Avevamo anche un inviato che si è rifiutato di fare il report, ma poco male. E invece per la squadra della Sant'Ambrose femminile, male la prima, perché c'è stata una secca sconfitta in casa per 4-1 contro le temibili ragazze di Bonola. E appunto continuiamo con il calcio popolare femminile menichino e continuiamo a parlare delle ragazze di Bonola, del Partizan, le Rosa Fluo. Questa domenica giocheranno in casa contro il Fatima Traccia, invece settimana scorsa nel derby con l'Ardita hanno vinto per 3-2. Pare che questo trend positivo dalle parti della Metro Rossa in direzione Ro oltrepassi le condizioni di genere, nel senso che sia la femminile è molto forte, ma anche la maschile del Partizan Bonola va alla grande, di questo parleremo dopo. Continuando a parlare invece sempre delle femminili, c'è l'Ardita Giambellino che, come detto, ha perso 4-1, ha perso 3-2 contro il Partizan Bonola. Ieri sera ha perso 1-0 contro l'Assisi. Cuore e grinta ancora non bastano. A fine ottobre giocheranno in casa contro il Vittoria, sperando che cambierà qualcosa in classifica. Parlando dell'Ardita, passiamo ai ragazzi. I ragazzi di Piazza Tirana hanno avuto un esordio con sconfitta in casa, appunto 1-0 contro il Trenno. Giocheranno la prossima in trasferta il 25 ottobre contro l'Usob ASD. Staremo a vedere. E ora invece parliamo della squadra, come detto, che sta macinando punti su punti e sta insomma continuando a fare record. Parliamo del Partizan Bonola, ma del Partizan Bonola che gioca in seconda in FIGC. E niente, ha vinto 2-1 Corsaro a Corsico in trasferta, e quindi 7 vittorie su 7 nelle prime 7 partite, primo posto, più 5 sulle inseguitrici, e domenica giocherà in casa contro il Pero per consolidare insomma il suo posto in classifica. Ricordiamo che il Partizan Bonola ha anche un'altra squadra, la squadra che gioca sempre in CSI a 7, si chiama in realtà il Partizan Dadaisti, che ha vinto 1-0 in casa contro il Fortes. E infine chiudiamo con un'altra squadra di calcio popolare, con una provinciale. Non possiamo non citare la FC Dal Pozzo, che ha appena festeggiato i suoi 10 anni di vita sabato scorso, e proprio sabato scorso contro la Legnanese ha vinto per 2-1. in casa, facendo esaltare i tifosi e le tifose sugli spalti. Il 2-1 a quanto pare è un risultato che piace alla squadra della frazione calcistica in provincia di Varese. Anche in Coppa Lombardia si è replicata contro il Cascina Mamete, che appunto viene esteso dalla compagine giallo-verde. E domenica, sempre la Dal Pozzo, andrà a giocare in trasferta a Legnano contro la San Giorgio. Allora, questi sono gli aggiornamenti dalle realtà di sport popolare. Ricordiamo che ci sono appunto altre squadre sicuramente, ma per ora abbiamo deciso di seguire l'Ardita Giambellino, la Sant'Ambrose, il Partizan Bonola e il Dal Pozzo, le relative compagini maschili e femminili, oltre a Stella Rossa Rugby. Della Stella Rossa abbiamo detto solo che giocherà in casa la Wisp. Ricordiamo che invece la squadra FIR si è iscritta in Coppa Lombardia, quindi in Coppa Lombardia si gioca a Rugby 7, tutto campo, rugby olimpico, ma nessun'altra squadra in Lombardia si è iscritta a questa competizione. Quindi a quanto pare, se entro il 13 novembre non si iscriverà nessuna squadra, la Stella Rossa avrà il primo suo trofeo da portare a casa per la Federazione Italiana Rugby. Poi saremo a vedere e vi aggiorneremo di sicuro. Ora continuiamo con un po' di musica, dallo studio è tutto, linea Dyna. The rings with the window crack, holla back, money ain't a thing. Jigga, I don't like it if it don't gleam, gleam in the hell with the price, cause the money ain't a thing. Put it down hard for my dogs that's locked in the vein. When you hit the bricks, new whips, money ain't a thing. Yeah, I wanna floss with us, all across the board, we burn it up. What? Drop a little paper, baby, toss it up. Yeah. Sacking on your pimpin', turn it up. Yeah, I wanna floss with us, all across the board, we burn it up. What? Drop a little paper, baby, toss it up. Yeah. Sacking on your pimpin', turn it up. Funny. Hey, 'cause it's all about money, ain't a damn thing funny. dance to the beat, shuffle my feet, cause it's all about money, ain't a damn thing funny. Ain't a damn thing funny, ain't a damn thing funny. Dance to the beat, shuffle my feet, cause it's all about money, ain't a damn thing funny. Ain't a damn thing funny, ain't a damn thing funny, ain't a damn thing funny. Allora, 18:30, questi erano i DJ Agent 86, All About The Money. In realtà il vero nome di questo DJ è Nigel Reynolds, producer australiano, electrofunk. L'uscita dell'album da cui è tratta questa traccia risale al 2010. Ora, per staccare un po' da tutto questo momento di serietà, dopo lo sport popolare, abbiamo una nuova rubrica dove diciamo proviamo a riportare un po' di notizie che sono uscite dal web e che ci fanno sorridere. Ci proviamo? Allora, a quanto pare in Campania, ad una festa di battesimo, c'è stato un vero e proprio battesimo di fuoco, nel senso che durante i festeggiamenti per il nuovo arrivo in famiglia del primogenito, qualcuno ha pensato di fare uno scherzetto al nonno del battezzante e niente, quindi gli hanno tolto la sedia mentre si stava sedendo al signore anziano, e però lui è caduto e alla fine la festa non è più finita con brindisi per il nascituro, ma bensì è finita a coltellate e fucilate. Invece a Roma, nello specifico a Tor Bella Monica, come sappiamo un quartiere di alta residenzialità, insomma, una donna è andata a firmare la carta per la notifica della sorveglianza speciale. Abbiamo parlato sabato scorso di sorveglianza speciale, guidando uno scooter rubato ad un poliziotto. Scusate, un po' di problemi tecnici, abbiamo i cavi scrausi e quindi il DJ Dyna non sente più la musica e logicamente mi dà la colpa a me, ma anche giusto così. E quindi vabbè, dicevamo, questa questa, cioè, bello della diretta. Invece questa donna che andava a ritirare la carta per la sorveglianza speciale, abbiamo parlato sabato scorso di cos'è la sorveglianza speciale, nello specifico a Saronno, è andata in caserma guidando uno scooter rubato ad un poliziotto. Quindi quando si è presentata, evidentemente qualcuno ha riconosciuto lo scooter che era stato rubato e pensiamo un po' tutti e tutte che probabilmente non gli hanno notificato solo la sorveglianza speciale, ma forse anche qualche altra misura cautelare, purtroppo un sostegno alla nostra, insomma, compagna in un certo qual modo a livello di repressione. Prima di tornare a parlare ancora della città e dei suoi cambiamenti, diamo un aggiornamento dal traffico, nello specifico dal traffico a Montecatini Terme. Questo me l'ha segnalato il DJ Dyna, che giustamente scuote la testa in maniera... Vabbè, a Montecatini Terme a quanto pare ci sono dei manifesti sexy in città che rallentano il traffico, e tutto questo ha creato degli scompi, gli incidenti, i tamponamenti e discussioni. Ora noi citiamo questa roba, ma di sicuro c'è da notare la visione critica della città termale toscana, perché logicamente più che ultra perbenista. Vabbè, ora andiamo musicalmente invece dal traffico di Montecatini Terme, arriviamo a San Siro, zona stadio più o meno, ci sentiamo Notre Dame di un famoso rapper trapper milanese, questo è Nema Ezza. Vai Dyna. Fumo sul tetto del mondo aspettando che passi, vicino a mare di sogni, tiro dei sassi, sospiro e respiro, sai che non ricordo i miei passi, ora mi inchino e sorrido e ringrazio gli applausi. La merda che ho visto mi rende più grande degli altri, sono attratto dai pensieri che penso a tratti. Cerco contatti di accontentarti, di come imparare a comportarmi. Compro emozioni, non so contenermi, non so contenermi.

fuori e sforiamo dall'ora e mezza di scaletta, di tempo che abbiamo a disposizione. Partiamo subito con stasera. Stasera ci sarà il gran galà del calcio popolare, l'Ardita Giambellino, la squadra che lo organizza, serata birrette e tessere dalle ore 22 in Viale Gonizugna al Linearetta. Sempre stasera, è già iniziato, ci sarà iniziativa al Fo' a Boccaccio dalle 18, una pericena vegan e poi la presentazione di Whatever di Chiara Fossati, la presentazione libre chiacchierata in compagnia dell'autrice, poi a seguire DJ set techno. È sempre oggi dalle 18, anche questa è un'iniziativa già iniziata ma la citiamo perché è interessante e importante, Voci dalla Palestina, conversazione con il compagno Fuad in collegamento dal campo profughi del sud del Libano. Questa iniziativa sarà presso l'associazione Revdar, via Digione 7, Milano. Come al solito ogni venerdì ci sarà la cena popolare a sostegno dei progetti del CIOA T28 in via dei Transiti 28 dalle 20:30, live acustico Il Vento Contro, e poi c'è il menù curry giallo, thailandese con riso e supporto all'occupazione di fondi autogestione. Passando a domani, come già detto e anche introdotto dal compagno di Monza, ci sarà il corteo Insorgiamo a Bologna per insorgere e convergere tutti insieme, tutte insieme. Domani ci sarà un'iniziativa alla Fornace a Rho in via Risorgimento 18 con un concerto con Laika nello Spazio, Double Bass Post Punk, No Place to Hide, Dark Rock, Macerie, release party di questo gruppo e gli Empty Stomach, Punk Stoner, sempre domenica. Passiamo a domenica dalle ore 17:30 al Baraonda ci sarà la presentazione di Riot, George Floyd Rebellion 2020, fatte testimonianze e riflessioni in conchetta. Invece ci sarà la Bohème Theater Arbate, sarà questa iniziativa in conchetta, ci sarà appunto questa esibizione di teatro con ingresso a 7 euro. Di teatro si parla anche alla Fornace, sempre domenica 23 ci sarà Sebastian Burrasca di e con Fabio Lucegnano, organizzata dal collettivo Clown. Sempre domenica per il ciclo La Guerra Trema, dalle ore 18 in poi ci sarà a Leoncavallo la presentazione del libro di Yuri Colombo, La Russia dopo Putin. Ancora domani pomeriggio, altro concertino hardcore, matinee al T28 come al solito. Nelle ore 18 si esibiranno i Torba, Lecce Hardcore, Rope, Torino Hardcore, Linguini, Milano Noise Rock e gli Zidima, Monza Noise Rock, Benefit contro la repressione. Continuiamo lunedì, assemblea pubblica Non Paghiamo Milano. Questa assemblea sarà alla Camera del Non Lavoro dalle 20:30 in piazzale Baiamonti. In conchetta invece, mercoledì 26 ottobre, proiezione del film Fuga da Pretoria, regia girata in Australia, regia di Francis Annan del 2020. La proiezione inizierà dalle 21:30. Smascheriamo la crisi, ci sarà questa assemblea venerdì a Scienze Politica, il carovita tra propaganda e realtà, quindi alla facoltà di Scienze Politiche. Nel cortile ci sarà l'assemblea pubblica dalle ore 14 in poi. Continuiamo con gli Into the Week a Monza 27 ottobre, ANF e Shoghi dalle 21 alle 23, quindi concerto con il gruppo palermitano e il gruppo milanese nella nuova sede del Fo' a Boccaccio 003 in via Timavo 12 a Monza. Per sabato prossimo invece rilanciamo un appuntamento volante di un corteo cittadino alle ore 15, 29 ottobre a Piazza Loreto a Milano. Bando alla rassegnazione e alle illusioni, come coordinamento per l'organizzazione e la lotta. Poi gli altri appuntamenti, insomma, da sabato in poi li diremo nella prossima puntata. Ora noi ci apprestiamo ai saluti finali. Ricordiamo i nostri contatti, Radio Tagadà. Oggi siamo andati in diretta dello spazio comune Cuore in Gola, ma il nostro momento insomma su Radio Onda d'Urto è ogni sabato dalle 14:30 alle 16. Quando riusciremo andremo in diretta, quando non riusciremo registreremo appunto le puntate e poi manderemo il podcast. Possibilmente vi annunciamo già che delle puntate in diretta o in differita saranno itineranti negli spazi occupati di Milano. I nostri contatti, Radio Tagadà, @autistici.org, potete scriverci via Telegram al 351 55 79 698. Ricordiamo che abbiamo anche Facebook ed Instagram, ed oltre potete scaricarvi il podcast della puntata su cronachedi.regime.noblogs.org. Allora, noi vi salutiamo, ora lasciamo un po' di spazio a DJ Dynamite. Questa è Peggy Go, It Makes You Forget. Questo è un brano da DJ e producer sudcoreana che è uscito come singolo nel 2018. Un artista che in breve tempo dal suo esordio è riuscita a spopolare in tutto il mondo mischiando sonorità electro, house e techno. Questa è It Makes You Forget e noi vi salutiamo da Milano e ci sentiamo sabato prossimo, sabato 29 ottobre.